Convocati di Giovanni Capuano. Privata della gente o della vita delle altre cose, di quello che è stato. Lei sa bene, Zenga, che si è comportato con poca educazione nei confronti di un collega. Lo sa bene, lo sa anche la Lega. E la faccia finita di parlare quando non ci sono le persone. Parli in faccia. Guardi, parlo tranquillamente con lei e certamente le sue minacce la qualifichino, certo. Voglio dire. Quale minacce? Anche quale su minacce? Questo. Vuole parlare della partita, Zenga? Se vuole parlare della partita, ne parliamo. Ecco, allora parliamo di Brienza. Un giocatore che oggi è contribuito. Brienza, vede che è informato bene, a parte che è Mascara. Di Mascara, le chiedo scusa. Come si agita? Siccome il mondo del calcio è molto social e ci sono telecamere ovunque, su tutti. Sì, ho fatto il dito medio a 8-9 tifosi. No, lo chiedo a lei. No, l'ho fatto, no? Io quando faccio una cosa la dico. Quindi ho fatto il dito medio mentre uscivo perché ho preso degli insulti e quelli non potevano essere lì perché devono esserci gli steward a tenerli dietro. Quindi non deve essere lì a insultare e a dirmi tutte le parole. Quindi in un momento così l'ho fatto. Contenta? No, io glielo ho chiesto. Allora, se mi deve fare delle domande per fare polemica, facciamo. Io ho detto, ho risposto. No, ma siccome c'è una cosa che gira su tutti i social, è giusto anche chiedere. Ho detto che lo faccio. Ho detto che l'ho fatto. Cosa ho detto? Va bene, ok, volevo solo. Ecco, allora, basta. Ho detto che l'ho fatto, fine del discorso. Va bene, ok. Ecco. Ok. Scusa Massimo, mi sembra di sognare, nel senso ho capito bene. È tutto bene. Vero. È un silenzio stampa ad aziendam, cioè con Sky. Sì, è così. La Fabini se non parlerà con Sky né faranno altrettanto i giocatori delle Napoli. Oh, siccome non è più Natale, perché è passato, anzi, domani è l'Epifania che tutte le feste si porta via, non abbiamo più l'obbligo di essere bravi, politicamente corretti. E allora che nostalgia, però da domani ci siamo, si torna al calcio in televisione e oggi abbiamo qui in studio un grande ospite, davvero un onore, l'uomo che da anni ci riempie, i sabati sera, le domeniche pomeriggio, i martedì e i mercoledì sera, forse anche martedì e mercoledì sera. Assolutamente no. Non più, però per anni l'ha fatto. Per anni, sì. Sì, avete presente quelle figure oscure, quelle che vengono citate un paio di volte da Piccinini, da Pierluigi Pardo, da tutti i telecronisti? Li riconoscete dalla voce? Ah, non credo che possano riconoscermi. No. La voce poi, tra l'altro, la possiamo cambiare quando vogliamo. sai che il vantaggio della radio è proprio questo, che l'intonazione può cambiarci completamente. Quando Sandro diceva? Cos'è che diceva? Adesso ricordarlo più facilmente tu, no? Dicevi, ma vediamo cosa ci fa rivedere. La ora. Regia di Poppy Bonnici, che è il nostro grande ospite, che ovviamente ha un nome e ha anche un cognome. Ospite di oggi, perché siccome noi siamo nostalgici del calcio in campo, ma anche del calcio in TV, oggi vogliamo fare due chiacchiere belle, tranquille, proprio su tutto quello che c'è intorno e dentro la produzione dell'evento sportivo del calcio. Te la ricordi tu la prima regia che hai fatto di una partita? Di una partita? Cos'era, sì, in bianco e nero, no? Cioè adesso va bene tutto, però cioè, portarmi così indietro, qualcuno dice che sono da pensione, no? immagino di no, visto come stanno andando le pensioni, quindi avremo ancora tempo, ma la prima partita è stata un mundialito di club giocato a Milano ed era il 1983. Che era quello famoso con cui Berlusconi si è presentato al mondo del calcio. Assolutamente sì, e per la prima volta si cominciò a mettere delle telecamere diverse rispetto a quelle che venivano normalmente messe a disposizione da parte della RAI, quindi ricordo anche che mettemmo addirittura una gru perché non c'era il terzo anello. Oggi andrà al terzo anello, come guardarla da una gru. Certo. Stessa roba. Cioè quindi per voi è anche più semplice piazzare le telecamere alte. Sì, a parte che oggi c'è tutt'altro anche come tecnologia. C'è molta più tecnologia, ma molta di più, e che è tecnologia che oggi tutte le persone che hanno in mano un piccolo smartphone o un tablet possono accedervi con grande facilità. Senti, ma è vero o è leggenda metropolitana questa cosa che proprio in quel mundialito lì Berlusconi cominciava a chiamare i registi, dire no, Galderisi dovete riprenderlo dall'alto, non dal basso o il contrario, perché sennò sembra, insomma, non è un giocatore col physique du rôle per stare nel Milan. La roba divertente del dottore, e qui già hai capito, cioè da quanto tempo lo si conosce, era quella di non entrare mai su questi temi. Io l'ho sentito una volta quindi sola, è una leggenda. In tutta la mia esperienza, che quindi è stata quella più, l'ho sentita una volta sola, eravamo a Cesena e mi ricordo che mi chiamò per dire: bella, mi piace molto la sua regia, sono contento Poppi, però mi raccomando non mi faccia vedere la rimessa laterale. E io gli dissi: scusi, ma guardi che in Inghilterra va benissimo, noi abbiamo preso qualcosa. A me non piace. Cioè non voleva la rimessa laterale. Esatto. E perché? Non perché te l'ha mai spiegato? Non so, credo che fosse un piacere, e quel piacere io ho continuato a tenerlo forte, è un piacere che deriva però da una visione di un calcio, e forse quella molto più inglese. Sì, oggi Poppi Bonnici, ex regista per non so quanti anni di Mediaset, oggi è l'allenatore dei registi della Lega Calcio, che è quella struttura che è stata creata diciamo un anno e mezzo fa e che centralizza le regie di tutte le partite di Serie A, poi vengono distribuite alle varie televisioni, Sky, Mediaset, il segnale va all'estero per chi ha comprato i diritti. L'uomo che allena tutte le settimane, li porta fino al fine settimana cercando di creare, poi parleremo anche seriamente, cercando di creare un format, uno stile unico di racconto del calcio in TV per quanto riguarda la Serie A, è proprio Poppi Bonnici, cosa che ha creato anche alcune polemiche. Saluto Antonio Di Pollina, collega di Repubblica che si occupa molto di calcio e televisione. Ciao Antonio. Ciao, buongiorno. A te piace la regia come viene raccontato il calcio italiano in TV? Occhio Antonio. Attenzione. Vabbè, è chiaro. visto che ci siamo frequentati nella stessa azienda per tanto tempo, occhio. Sì, era molto tempo fa, bisogna dire anche quello. A me sembra che la parte delle riprese, del come viene offerto il tutto, di cosa si vede, dei replay e tutto quanto sia la cosa meno criticata in assoluto in questi tempi in cui chiunque si alza, prende una tastiera e si mette a dare opinioni su quello che vede e sente. E questo, e su questo ci sarà un motivo, evidentemente. Evidentemente ci si lamenta poco, e se ci si lamenta poco vuol dire che probabilmente ormai si è arrivati a una resa assolutamente di livello importante, e quando ti sei goduto la partita e magari non ci hai fatto caso, non ti è venuto da appunto lamentarti per nessun motivo, vuol dire che le cose sono state fatte per bene. Mi sembra che succeda sempre di più. Cioè siamo fermi alla prospettiva del fuorigioco di Tevez di 2 anni fa, Juventus Milan. Sì, ma vabbè, poi roba da geometri di tastiera. Sì, infatti. No, ma senza riferimento al geometra, no, per carità. Geometri nel senso gli altri. Ci mancherebbe altro. Così, da quel punto di vista direi bene. Poi, non so, mi sembra che proprio l'azienda in questione ha fatto quella finale di Champions a Milano con mi era capitato di andarci il giorno prima a vedere un po' cosa succedeva e cioè mi ero quasi preoccupato io per loro, tanto sembrava lo sforzo e la tensione, tutto che evidentemente c'era, ma poi la sera dopo mi sono messo a guardare la partita, la sono vista, goduta e tutto, ha funzionato tutto, evidentemente ormai ci sono anche dei professionismi, degli automatismi che funziona. Sì, perché dietro una grande partita, la produzione di una grande partita, c'è un lavoro di centinaia di persone. Io ho avuto la fortuna di poter seguire la produzione dell'ultimo derby di Milano, stiamo parlando del mese di novembre, dove su 2 regie tra registi, tecnici, operatori, c'erano un centinaio di addetti su 2 regie. La finale di Champions dello scorso 28 maggio a San Siro, prodotta da Mediaset, perché Mediaset detiene i diritti per l'Italia, è stato uno sforzo immenso. Sicuramente un grande sforzo, di cui dico, ha detto bene Antonio. Mi ha preoccupato un attimo quando ha detto è stata la resa. Lì ho avuto un attimo di shock, poi dopo ho capito che era il risultato, non la resa, quella cioè di diciamo surrender. E quindi quello che è stato il grande sforzo, dobbiamo ricordarlo, è fatto da tutte quelle persone che citava anche Antonio prima, di fatto, quando diceva ho visto questa produzione così importante. Quanta gente lavora dietro una partita normalmente, dietro senza partita, andare a grandissimo allora, evento? Se andiamo su una partita normale, lavoriamo con una 50 di persone, tra le 50 e le 60 persone su una partita normale. Vi possono sembrare già un buon numero. Poi quando andiamo a parlare invece di un grande evento parliamo di veramente centinaia di persone, cioè il totale credo di una finale Champions League si avvicina tranquillamente ai 220 soggetti interessati, perché uno deve pensare a tutto quello che c'è dietro, no? E queste persone sono tutte persone molto molto disponibili. La regia peraltro di quella finale, è stata realizzata proprio da uno dei registi che lavora con noi tutto l'anno, che si chiama Giorgio Galli, che ben pochi conoscono. Sì, che è un altro di quei nomi che compare poi nelle citazioni solitamente all'inizio e alla fine e non oltre. Siamo vicinissimi al traffico, io però mi tengo ancora per qualche minuto Antonio Di Polina, poi c'è anche un altro amico che ci ha raggiunto, un amico di Radio 24, Gianfranco Giardina, reduce da un viaggio a Barcellona per seguire il classico con nuove tecnologie sperimentate, il 5K, il replay a 360 gradi, perché poi affrontiamo anche questo tema, cioè come è cambiata la produzione del calcio in televisione e come potrebbe cambiare nei prossimi anni. Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Convocati. Tra quello che era il cammino della Juventus lo scorso anno e quello che è l'inizio di questa stagione, e in che cosa manca la Juventus, guardando anche la classifica, perché poi alla fine parla... Secondo lei in cosa manca, scusi, le faccio no, una domanda. No, io lo chiedo a lei, cosa... io faccio il mio ruolo. Capito, basta vedere la classifica, no, ma scusi, abbia pazienza, le ho spiegato ora, basta vedere la classifica, abbiamo 5 punti. Insomma, guardando la classifica è meglio guardare chi sta davanti a 6 punti il Napoli, chi sta dietro a 6 punti l'Inter. Si guardano tutte e due, si possono guardare tutte e due, lei ci dà questa possibilità? Sì, sì, certo. Allora si guardano tutte e due, insieme, allo stesso modo. Ecco, perché fuori Bacca e non Onda, visto che era un Milan sotto di un gol? Perché io faccio allenatore e lei fa presentatrice. Io le chiedo il cambio, insomma, ovviamente, io faccio il mio ruolo, lei fa il suo, io faccio il mio. Oh, io non so se Poppy Bonici ha mai fatto il regista del dopo partita. Guarda, abbiamo fatto dei programmi, devo dire che sentire questi, cioè tutti sì, questi appunti. Ma noi li stiamo raccogliendo tutti, perché no, ma siamo un po' bastardi oggi. No, sono decisamente divertenti, perché riportano ognuno nelle sue condizioni di donna e di uomo, intesa nel senso di persone. Quindi c'è che hanno momenti in cui anche si permettono di dire, e hanno la possibilità di dirlo, da una parte e dall'altra, quello che veramente pensano, in un mondo che non dice più quello che pensa. Ma ci sono registi donne? Assolutamente sì. Assolutamente sì, mi dispiace anche non averne di più, ma devo dire che sono poche anche le donne che si avvicinano al calcio. Noi in questo momento siamo due uomini, io spesso vi ascolto e difficilmente sento delle donne. Sì, è vero, hai ragione, anche le ascoltatrici che ci chiamano, ma domani possono tornare a farlo, 800 24 00 24, assoluta linea diretta con il nostro pubblico femminile. Allora, c'è ancora Antonio Di Polina, c'è Gianfranco Giardina, il portale D-Day, spesso lo sentite con Enrico Pagliarini nelle trasmissioni che trattano di tecnologia, perché adesso affrontiamo anche questo aspetto. Mi piacerebbe sapere da Antonio Di Polina che voto dà al calcio in TV come prodotto, perché poi possiamo anche provare a fare una classifica fra i vari sport. C'è la Formula 1 che fa dormire, ma forse è colpa della Formula 1 e non di come viene raccontata. C'è la MotoGP con quelle telecamere che fanno immaginare sempre che stia capitando chissà che cosa, fanno anche un po' spavento, non lo so io. Antonio, che riflessione fai? Ma che il calcio sta diventando sempre più partita centrico, diciamo. Viene caricata molto l'attesa per la partita in sé, la partita, appunto, come abbiamo detto, viene mostrata ormai al meglio, e chi ha tutte le altre definizioni del caso, se la gode davvero in una nitidezza e perfezione che sarà ancora perfezionabile, ma che è a un ottimo livello. E poi, bene o male, rispetto al passato ci si ferma un po' lì. Abbiamo detto come i dopo partita abbiano bisogno, per esempio, di Allegri arrabbiato, è cosa che succede peraltro abbastanza poco per funzionare. Da quel punto di vista, secondo me, le televisioni dovrebbero pretendere molto di più dalle squadre quanto a presenza di dirigenti, di animazione complessiva del dopo partita, che in questo momento negli ultimi tempi è molto parcellizzato, è una specie di schemino che viene seguito sempre, e quindi se non è successo qualcosa di assolutamente clamoroso ci si annoia subito, oppure si gira su un altro canale dove magari intanto è partita una partita di calcio estero, per dire. Quindi da questo punto di vista il prodotto, i 90 minuti più recupero del calcio Dacis in questo momento sta stravincendo sopra tutto il contorno del calcio. Su tutto quello che c'è, tra l'altro contraddicendo una delle vulgate popolari, cioè che il calcio in Italia sia il calcio col valore che ha proprio per tutto quello che sta intorno ai 90 minuti della partita, che sono quasi un'appendice, cosa che evidentemente non è così, tant'è vero che in Italia, ma non solo, si sta lavorando molto proprio su quello. Gianfranco Giardina, diciamo, reduce dall'esperienza del classico al Camp Nou, dove che cosa è stato sperimentato? Ma è stata sperimentata l'applicazione di questa nuova tecnologia di Intel, anzi di una startup che Intel ha acquistato qualche mese fa, col posizionamento di 36 videocamere fisse, assolutamente vincolate allo stadio e puntate e calibrate proprio in maniera molto, molto precisa, si ricrea quella situazione che avevamo visto già una quindicina di anni fa abbondanti in Matrix. Il cosiddetto bullet time, di fatto quando si vedeva quelle scene dove il proiettile fermo nell'aria, il punto di vista girava attorno al proiettile praticamente immobile. Ecco, in questo modo i computer, una batteria enorme di computer, è in grado di ricreare il modello tridimensionale della scena in movimento che sta avvenendo nel campo e quindi, prima applicazione, per fare un replay particolarmente seducente, è possibile modificare in qualsiasi momento il punto di visione della scena e quindi girare attorno alla scena e quindi cambiare posizione praticamente sugli spalti. Quindi stiamo arrivando a raccontare, Poppy, il calcio quasi come se fosse il cinema. Per non dire un videogioco. Un videogame, esatto. Io credo che siamo più vicini, perché la tecnica utilizzata è giusta, quella di Matrix, è stata utilizzata per la prima volta da CBS su un Super Bowl, tra l'altro era 98-99, adesso esattamente non lo ricordo, so soltanto che... Quindi siamo indietro di 20 anni. Sì, ma nel 2001 sono venuti a proporla, in quella cosa che Antonio raccontava prima della finale di Champions League del 2001, e l'unico problema è che costava quanto tutta l'intera produzione, quindi vi lascio capire che cosa possa voler dire a quell'epoca. Oggi la tecnologia è andata molto avanti, ha ragione Antonio quando dice che si guarda la partita e tutto il resto ha perso di smalto, ha perso di valore. Qui faccio un piccolo appunto estremamente personale, ed è mi piacerebbe vedere le conferenze stampa con i due allenatori, uno di fianco all'altro. Questo lo apprezzerei tanto. Non so Antonio cosa ne pensa, ma tecnicamente poi... Sì, a patto che si possa dire qualcosa però, Antonio. Sì. Perché se poi è tutto ingessato puoi anche metterli a fianco. Guarda, il termine esatto è quello che dicevo prima, secondo me, ed è parcellizzato, regolato da contratti ferrei che dicono il tale dirigente deve presentarsi nel prepartita 20 minuti prima e poi non ha più nessun obbligo di presentarsi dopo a seconda di come la partita è andata. Questo, da questo punto di vista sono le televisioni che hanno accettato contratti molto riduttivi da questo punto di vista, ed è abbastanza bizzarro tenendo conto che sono le televisioni che tengono su il baraccone medesimo che stiamo andando a mettere in scena. E lì non c'è tecnologia però, lì c'è proprio l'aspetto umano. Come quello che abbiamo sentito, insomma, degli scazzi da televisione, dei momenti di tensione. Grazie Antonio. Grazie a voi. Un abbraccio. Grazie ad Antonio Di Polina. A che punto siamo però in questo cammino tecnologico? Perché noi già il 4K lo abbiamo visto nelle prime sperimentazioni sulla Serie A proprio in quest'autunno con il derby di Milano, l'avevamo visto nella finale di Champions League dello scorso maggio. Adesso parliamo del 5K. Tu devi immaginarti una transumanza. Un grande gruppo di persone che cammina. Ci sono quelli che sono più avanti, ma ci sono quelli che sono ancora indietro. Quando abbiamo detto che la partita in TV si vede oggi molto bene, lo diciamo a livello teorico, perché a livello pratico chi la vede oggi in standard definition, cioè quindi con la risoluzione non HD, quella tradizionale, non vede oggi una grandissima partita, perché alla scarsa... alla bassa risoluzione della standard definition si sommano che cosa? I TV, che sono diventati molto più grandi adesso, quindi noi andiamo a prendere quella risoluzione e la spalmiamo su uno schermo che non è più il 32 pollici quando era molto grande qualche anno fa, ma il 40, 50, 55, 65. E poi andiamo a sommare anche la compressione del digitale che su quelle risoluzioni si fa. Quindi sta diventando vedere, uno sport per ricchi il calcio? Vedere. No. Cioè per vedere bene il calcio in TV. Ma no, ma un TV HD, oggettivamente un TV HD adesso è difficile non comprarlo. E chi vuole restare legato a un vecchio TV, ahimè ancora funzionante, e non trova il coraggio di spendere oramai quelle poche centinaia di euro che servono per prendere un TV assolutamente all'altezza. La differenza tra la standard definition e l'alta definizione sul calcio, poi, e sui totali, più che forse quando, sulle immagini strette, sui totali, è clamorosa, è una differenza pazzesca. Sì, però dobbiamo anche considerare che oggi le persone vanno sugli smartphone e non importa quello che vedono in termini di qualità, importa che vedano la partita, no? Gli interessa molto di più. È chiaro, cioè, che c'è comunque un target di persone che ha voglia di vedere bene la partita e sentirsi immerso nella partita. E sentirsi immerso nella partita ci porta a schermi sempre più grandi. Non è solo un problema però di denaro, cioè è un problema anche di spazio, è un problema di cultura, è un problema di voler vivere più o meno in maniera immersiva questo sport. E lì adesso poi con Giardina vediamo anche magari di affrontare quello che sarà il prossimo tema, perché il prossimo tema viaggerà tutto attorno agli smartphone, ecco, attorno ai ma tablet. Ma voi cambiate il modo televisore. Di raccontare la partita, sapendo che va su un telefonino che per quanto assolutamente grande cambierà. È a 5 pollici, dovrà 4 cambiare. Pollici. No, dovrà cambiare perché cioè, oggi abbiamo tanti come Twitter, lo sapete, o anziché altri fornitori come possono essere Amazon TV. Sapete, tra l'altro Amazon TV, proprio restando nel tema dello sport, dei motori in questo caso, sta dando delle bastonate incredibili alla BBC che aveva Top Gear, no? Quindi cioè, e perché? Perché poi lo guardano su devices, quindi cioè su macchine che non sono il televisore classico. Ma quindi la partita, il calcio, l'evento sportivo avrà, che deve andare sullo smartphone. Ma voi provate a immaginare, per esempio, un domani che voi potrete guardare la partita e con due dita aprire o stringere l'immagine, quello che oggi chiamate il pinch sulle foto, no? Quindi quella larga e stringe con le due dita, potrete magari posizionarlo su un pezzo del campo che vi andate a guardare più specificatamente. Questo cioè sarà un grande, ma grandissimo modello di racconto, perché ognuno potrà farsi il suo racconto. Tu dici, allora a quel punto noi che c'entriamo? No, c'entriamo sempre. Potete andare via. No, noi non possiamo andare via. Sai perché non possiamo andare via? Perché fornite il segnale fine, a tutti. Alla fine questo segnale che noi diamo deve essere in qualche modo amalgamato, deve essere raccolto, perché poi diventa difficile guardare una partita soltanto magari dalla Spider-Cam. Noi vogliamo sentirci sempre più con immagini che ci facciano esprimere la nostra parte più ludica. Quindi, perché? Perché siamo una generazione sicuramente molto più vicina a quella dei videogiochi. Ecco perché dovremmo cominciare a pensare che la visione non sarà solo più dedicata ai grandi schermi televisivi, ma sarà dedicata anche a questi. Due modelli di racconto che sicuramente ci daranno delle grandi soddisfazioni. E che in qualche modo richiamano anche due modelli di farla, la televisione legata all'evento sportivo. Abbiamo la borsa, torniamo subito dopo e continuiamo questo viaggio nel calcio in TV. Tutti convocati. Il 25 gennaio un gruppo scelto di ascoltatori di Melog avrà l'opportunità di visitare la mostra Homo Sapiens al MUDEC di Milano assieme a me. Per essere selezionati e far parte del gruppo degli eletti sarà necessario inviare due foto di se stessi alla mailbox melog@radio24.it. La prima foto dovrà essere del proprio passato e l'altra del presente. Gli ascoltatori dovranno indicare qual è stata la loro evoluzione o involuzione nel periodo che passa tra le due foto. Darwin ci ha insegnato che non sopravvive il più forte, ma il più capace ad adattarsi al suo ambiente. Ma noi quanto e come ci siamo adattati? 25 gennaio, ore 20:30 al MUDEC, via Tortona 56 Milano. Tutte le info su radio24.it. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. Tutti convocati. Io più che rispettare le idee di tutti e soprattutto di Sacchi, che è uno che ha stravolto il calcio, è un guru del calcio, quindi voglio dire, quando parla l'ascoltiamo. Poi uno può essere d'accordo o non d'accordo, questo è un altro discorso, ma questo fa parte della vita, quindi non ne vedo tutta questa problematica. Vediamo se questa sera siete d'accordo. Secondo me neanche stasera. No, io mi siedo però Allegri, guarda. Guarda, non ti fa tanto onore, visto la mia storia e la tua storia. Vabbè, Rigo, però se sei permaloso. No. Ho capito, ma. No, chiaritevi. Io ho fatto la battuta, voglio dire. Se no, guarda, ascolto, così magari. No, ma io non ti voglio. Di più. No, ma io. Guarda, che io non ti voglio far domande. No, scusa. Esprimo quello che penso. Va bene, non devi con spiegare, rispetto. Non mi devi spiegare niente. Beh, però devo dirti che dovrai imparare anche l'educazione. Sì. Oh, Poppe Bonnici, che questi personaggi li conosce da vicino, Gianfranco Giardino, quanto sono permalosi presidenti, allenatori, giocatori di fronte alla loro immagine come viene raccontata e riproposta? Ah, scusa Gianfranco, esiste uno strumento per poterla misurare? Perché cioè, essendo così soggettivo, cosa possiamo... Io non ne conosco. Non ne conosci, però no. Credimi, cioè, ce ne sarebbe bisogno, perché così riusciamo a centrarli un po' di più. Hanno ragione, tutto sommato, a essere permalosi. C'è qualcuno parte da una chiama e ti dice Poppi, però così non va bene. E io, perché hai mandato in onda l'immagine che... E io ci resto male e cerco di metabolizzare la cosa. E il punto vero è che noi dobbiamo ricordarci che ognuno ha il diritto di fare una critica. Se la critica è anche pretestuosa, ce la dobbiamo prendere. Perché se no, cioè, che ci stiamo a fare? Cioè, ci stiamo a prenderci anche le cose che ci fanno meno piacere. E sappiamo che alcune sono pretestuose, centimetro più, centimetro meno, non hai fatto vedere questo replay, non hai fatto vedere quell'altro. Credetemi, questo accade. La tecnica oggi ci consente di farla vedere e ci sono prodotti televisivi che ne vogliono sempre di più. E qui si va al tema anche di come state disegnando il modo in cui il campionato di calcio italiano deve essere veicolato in televisione, in Italia non solo, perché il segnale va all'estero, si spera sempre più all'estero, perché da questo dipendono anche le fortune dei nostri club e la possibilità di incassare molto dei diritti TV. Io sono testimone diretto, perché ho seguito la produzione dell'ultimo derby di Milano dalle cabine di regia, dove veniva prodotto l'evento 4K, ma non solo. E insomma, ho notato e ho avuto conferma di qualcosa che però era forse anche evidente, che rispetto al passato c'è un cambio radicale del modo di raccontare. Quelli importanti parlerebbero di storytelling, cioè di come viene raccontato l'evento calcistico oggi legato al campionato di Serie A. Ad esempio, meno replay, evitare replay inutili. Cercare di dare un'immagine positiva. Io non so se questa può essere una sintesi. Guarda, la sintesi è sicuramente corretta. Quella che sta nel racconto è cercare di vedere prima di tutto il gioco del calcio, rivedere azioni che hanno poco senso. Ripeto, proprio perché lo sto già dicendo, hanno poco senso, sono cose che non cerchiamo di non far rivedere. Voglio però raccontare una cosa che forse in pochi sanno, ed è questa, ed è che alla fine di una partita tutte le immagini di quello che è accaduto, quindi i momenti più salienti, vengono raccolti in un unico segmento, in un unico file, mettiamola così, che è disponibile nell'immediato a tutti quelli che stanno ricevendo quel prodotto. Quindi vuol dire che se uno non l'ha visto, cioè durante la diretta, perché il racconto durante la diretta è proprio uno storytelling diverso, allora può utilizzarlo in tutto quello che sono le trasmissioni successive. Poi, ripeto, abbiamo sentito Antonio prima parlare di queste trasmissioni. Sono certo che qualcuno che potrebbe essere in ascolto ci potrà dire una cosa anche diversa di questo. Però importante è capire che tutto quello che viene raccontato viene poi messo a disposizione per essere rivisto. Il nostro racconto va a tutto il mondo, non va soltanto a una televisione. Se no rischieremo davvero di finire per riproporre episodi molto magari meno importanti, che però per un commento sono altrettanto importanti da rivedere, ma solo per quel commento. Questo per spiegare che non c'è la tanto temuta censura che è stata evocata quando un anno e mezzo fa si è deciso di fare la regia unica gestita non dai singoli broadcaster, ma dalla Lega Calcio, che poi distribuisce il segnale. Sì, assolutamente. Censura non è la parola giusta. Ma censura, tu hai avuto la possibilità, l'opportunità, ma come è aperta anche a tanti altri colleghi della stampa, quello di poter vedere come funziona dietro e di essere assolutamente senza filtri. Cioè non c'è filtro, non c'è un racconto fatto da un uomo nero dietro a tutto questo, no. cieco l'avete visto, sia nel bene che nel male. Nell'episodio specifico c'è stata un'azione sul, quando abbiamo fatto l'Ultra HD, parliamo di Milan-Inter, il derby quindi, dove un'immagine non si è rivista. Perché? Adesso qui c'è anche da spiegarlo. Si è rivista invece sull'HD e quindi siamo due registi, stesso racconto. Nel nostro racconto questa immagine era già presente in quello che era l'Ultra HD 4K, chiamiamolo come vogliamo, era già presente in un dettaglio. Nell'altra non c'era presente. Un'inquadratura più stretta. C'era un'inquadratura di dettaglio, già vedeva bene sulla diretta. Al contrario, sul prodotto in HD questa inquadratura non c'era e quindi è stata riproposta in quei termini. Noi, se avessimo dovuto riproporre quell'inquadratura, avremmo potuto mandare solo quella telecamera, quindi avremmo rivisto la stessa cosa. Allora io credo che non sia necessario rivedere la stessa cosa, sia necessario rivederla semmai da angoli diversi. Ecco, questo è uno degli elementi che ci fa raccontare il calcio in un modo più più portato alla visione della partita ball in play, cioè quello che si gioca, cioè quello l'evento che sta facendo. Oh, questo è un tema delicato. Io saluto Alberto Brandi, direttore di Mediaset Premium. Ciao Alberto. Ciao. Tema delicato, perché io immagino che anche voi di proteste ogni domenica le riceviate, perché non avete fatto quel replay, perché l'avete fatto solo due volte e tre volte magari il replay su quell'altro episodio della squadra avversaria, sospetto, o no? Ni. Devo dirti che di proteste ne riceviamo poche, e addirittura ci sono delle giornate in cui le proteste proprio non ci sono, a testimonianza del buon lavoro della Lega, di Infront e dei vari produttori delle partite. È vero quello che sentivo, a disposizione c'è un feed finale in coda agli eventi, le cosiddette isocamere, che ci permettono di andare a ripescare qualche elemento in più, qualche immagine non vista, purtroppo per la cultura, lo dico purtroppo, tra virgolette, sì. Per la cultura italiana in genere si va a pescare qualche episodio che chiarisca fatti inerenti alle decisioni arbitrali, la classica moviola, e non magari al bello del calcio, anche se questo è materiale che poi noi in genere sfruttiamo, potendo utilizzare i diritti d'archivio anche per realizzare alcuni prodotti di approfondimento, in ogni caso delle clip o dei promo in vista delle giornate successive. Quindi devo dirti, non sento la mancanza, almeno durante l'evento, di coperture che mi mancano, perché viene seguito tendenzialmente il gioco in diretta. Sì, di una grande quantità di replay. Ovviamente Alberto Brandi è direttore di Premium Sport, non di Mediaset Premium, giustamente sono stato corretto da Giorgio De Luca, autore di questa puntata. faccio ammenda. Redazione giornalista di Premium Sport. Però insomma dobbiamo condividere il ragionamento sul fatto che il calcio italiano abbia bisogno di essere raccontato bene, soprattutto oggi che aspira ad allargare i confini e a essere sempre più venduto, Alberto, anche all'estero. Sì, deve essere raccontato bene, deve essere organizzato bene, perché noi possiamo fare anche un bel racconto tutti insieme, noi che andiamo in onda, però se il prodotto, il contenuto non è all'altezza di quello che richiede l'offerta mondiale, possiamo inventarci di tutto, ma non riusciremo mai a riempire gli spalti e ad evitare che si vedano delle zone vuote o campi spelacchiati o qualcosa che non sia spettacolare. Quindi deve crescere tutto il prodotto, i presupposti ci sono, mi sembra che la Lega abbia ottime intenzioni. Parlando della mia azienda, posso dirti che l'anno scorso abbiamo fatto due esperimenti importanti legati al 4K, la finale di Champions League e il derby del 20 novembre. La finale di Champions League non ho potuto vederla in TV perché ero allo stadio, e invece il derby me lo sono goduto in poltrona, e se all'inizio non avvertivo una grandissima differenza, sensibile ma non grandissima, me ne sono reso conto due giorni dopo, quando ho visto un match di Champions League sempre trasmesso da noi in Full HD, dunque 1920x1080, uso un termine tecnico, la differenza si vede perché le immagini erano meno definite di quelle che avevo ancora in testa del derby in 4K. Dal punto di vista tecnologico, Gianfranco, sì, come esce il calcio italiano? Ma esce bene, direi, posizionato occhio e croce come lo posizionerei in Europa, proprio anche il calcio giocato. Quindi siamo dietro gli spagnoli. No, vabbè, gli spagnoli. Cioè, quali sono i modelli più belli tecnologicamente? Gli spagnoli. Gli spagnoli hanno introdotto il modello di produzione unica praticamente prima di noi con Media Pro. e l'hanno fatto in una maniera molto valida, usando molte tecnologie, ipotizzando anche delle cose interessanti che potrebbero venire fuori, come per esempio le regie centralizzate con tutti gli stadi collegati in fibra ottica. Quindi è inutile spostare Popi Bonnici su 5 stadi la stessa domenica, perché è impossibile ovviamente, però lo si può utilizzare, perdonami il termine, facendolo restare sempre nel suo studio centralizzato e spostando di fatto tutti i feed di tutte le camere che arrivano in fibra ottica banda ultralarga in uno studio centralizzato. Oppure, tema secondo me molto interessante, è quello riguardo le serie minori. Oramai ci possiamo ipotizzare, anzi sono state fatte molte sperimentazioni in questo senso, di regie automatiche, non per levare il lavoro al regista, ma no, per le serie minori un regista non sarebbe evidentemente, una troupe intera non sarebbe giustificabile economicamente, ma c'è comunque un audience, quindi perché non avere delle videocamere automatiche, un sistema esperto capace, ovviamente sbagliando ogni tanto perché il regista non c'è. Sì, ma sbagliano anche i registi che stanno capaci di seguire le immagini con delle telecamere non presidiate, per esempio. Per un attimo, per un attimo mi sto sentendo al programma di Pagliarini. Sì. Ti stai sentendo anche un po' vecchio. No, vecchio se zero, il futuro sono telecamere che funzionano da sole, quasi. Ma neanche per idea. Cioè, Lega Pro fece un prodotto di highlights 5 anni fa. E partì io con quel progetto, quindi non mi sento vecchio. Dopodiché fu affidato questo progetto, andò avanti e si proseguì facendo appunto delle regie come sta raccontandoci in questo momento, che credo però sia veramente da Pagliarini come argomento. Per i tifosi della Lega Pro, i pochi o tanti che sono, magari no. Assolutamente, quei tanti che sono, perché cioè Lega Pro è molto seguita, me ne sono accorto in questi anni, cioè il fatto di potergli dare delle immagini che venivano raccolte in un unico centro, in questo caso questo centro si trova vicino a Milano, riceve tutte queste immagini, le assembla in diretta, aggiunge le grafiche, aggiunge il replay e il lavoro del regista praticamente viene fatto all'interno di un grande studio. Ragione, cioè noi dobbiamo arrivare a questo progetto, che è un progetto che avrà la possibilità di avere tante telecamere in vari stadi, ma ripeto, ricordatevi che il passo veramente successivo è una telecamera a 30 megapixel o ancora anche di più. Ancora di più, perché già le conosco, già le seguo e soprattutto con un numero di fotogrammi ancora superiore, che permetterà di vedere all'interno di questo tutta la dinamica del movimento. E quindi questo è il vero passaggio. Il passaggio per cui il pinch, e noi andremo a prenderci quello che ci interessa. Il pinch sarebbe il movimento delle due dita ad allargare, no? Dico per chi non è qua in studio. Se lo diciamo per i vecchi, lasciamo perdere. Per allargare l'immagine. Mi sentire più vecchio. Sì, abbiamo il traffico. Io mi tengo ancora un minuto, Alberto Brandi, perché io voglio però capire qual è il modello che stiamo seguendo. Secondo me è un modello quasi più anglosassone, britannico, di racconto del calcio italiano. O magari mi sbaglio, ma qui abbiamo Popi Bonnici, c'è Alberto Brandi, c'è Gianfranco Giardina, c'è il traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Tutti convocati. Allora, con Popi Bonnici, Gianfranco Giardina, Alberto Brandi, per capire come ci dobbiamo abituare da qui in poi, ma ci stiamo in realtà già abituando in questi mesi, a vedere raccontato il calcio in Italia. Alberto Brandi, qual è il modello migliore, quello che ci conviene seguire? Il modello inglese, quello che indugia poco, ad esempio, su replay, racconta molto anche dell'atmosfera intorno al campo, racconta molto delle emozioni, prova a trasferire quelle emozioni. Oppure poi in realtà ogni calcio deve adeguarsi a quello che è anche culturalmente, noi siamo latini, siamo più sanguigni. Hai già risposto tu, noi siamo diversi, noi siamo diversi dagli altri e soprattutto nel calcio, siamo diversi proprio in generale nella vita di tutti i giorni, nel calcio e dolorosamente anche nella tecnologia siamo un po' diversi. Io prima parlavo, scusami se torno sull'esperimento 4K, che è stato molto fortunato e ci ha permesso di avere un'ottima cassa di risonanza in tutto l'ambiente, quindi anche una buona operazione non solo tecnologica ma di marketing. Però penso che in Italia ci siano più tubi catodici che televisori 4K. Quindi quando pensiamo a un prodotto di qualità dobbiamo anche immaginarci chi sta dall'altra parte a vedere questo spettacolo. Noi abbiamo una cultura diversa dagli altri anche a livello sportivo. Io posso dirti quale può essere la mia preferenza. A me piace molto ad esempio la ripresa spagnola, dove si dà un po' più di spazio alla visione dall'alto e si riescono ad interpretare anche i movimenti tattici delle squadre. Detto questo, apprezzo molto anche i dettagli che può darti una regia inglese, dove il pubblico, l'ambiente fa da contorno e può migliorare lo storytelling dell'evento, come dicevamo. Bisogna vedere, come sempre, se il contorno nostro è all'altezza di quello che viene proposto dal calcio inglese. Che differenza fa? Quanto pesa televisivamente parlando, ad esempio, lo stadio pieno, lo stadio vuoto? E se davvero arriveremo anche noi a obbligare i club, ad esempio, a mettere gli spettatori tutti nel rettilineo opposto, tutti al primo anello, tutti insomma in favore di camera? Pesa tantissimo nel racconto di un evento, certo. E adesso molte produzioni devono dribblare le curve vuote dell'Olimpico o qualche spazio non occupato a San Siro, mentre probabilmente allo Juventus Stadium non ci sono di questi problemi, perché è uno stadio tarato su una media stagionale di spettatori che può garantire il club bianconero e di conseguenza non ci saranno mai buchi. E qui cominciamo a disegnare anche, come succede a Udine, con dei colori, quasi delle finte sagome di spettatori per rendere più appetibile l'evento. Sì, esperimento che avevamo visto in Portogallo mentre ristrutturavano, credo, gli stadi prima dell'Europeo, se non sbaglio anno 2008. Ma esiste, Poppy, una letteratura per il regista? No, stiamo cercando di costruire. Alberto sa benissimo che... il racconto di una partita in Italia vive soprattutto della qualità dello stadio. La qualità dello stadio non c'è, perché è innegabile che... Quanti sono gli stadi italiani a livello? A livello? Va, forse adesso non vorrei dire... quello di Torino, lo Juventus Stadium sì. Sì, direi che San Siro è uno stadio 5 stelle. È uno stadio che ha una grande qualità di ambiente quando è pieno. Quando è pieno, un terzo anello non lo vediamo mai, quindi cioè, va benissimo, ma stiamo tutti al primo, cioè, al secondo. Cioè, quei 50.000... No? Stiamo con i 50.000 e ci stiamo benissimo, come stiamo con i 42.600 a Torino. Ecco, allora lo riempiamo, allora abbiamo le file degli spettatori molto vicini, molto prossimi, che è quello che anche la televisione vuole vedere. Non vuole vedere uno spettacolo asettico, vuole vedere uno spettacolo che abbia un racconto anche del pubblico. Il pubblico è un elemento importante, purché non diventi troppo stucchevole, e in questo devo dire che ci hanno dato ottimi suggerimenti sia i nostri, diciamo, i nostri nazionali, quindi cioè le due maggiori televisioni che trasmettono l'evento di Lega Serie A, e come ci hanno dato però anche tutti gli internazionali, cioè sono molto contenti di quello che hanno avuto. In Italia abbiamo avuto un fenomeno che è diventato virale: il bambino anziché il pianto del tifoso per Totti, cioè si sono costruite delle storie intorno a questo. Noi anche questo dobbiamo cercare, non so se Alberto è d'accordo o meno, però è una ricerca che dobbiamo puntare proprio per il nostro calore. È vero che, e qui lo dico a voce molto alta, Alberto, non faremo mai vedere gli aspetti più negativi. Cioè, quello che accende il fumogeno allo stadio non sarà parte del nostro racconto. Però sai benissimo che questa parte del racconto tu l'avrai disponibile, perché dobbiamo ricordare che Premium, così come Sky, ha la possibilità di aggiungere delle telecamere, quindi sarà sempre in grado di far vedere... Il diritto di cronaca è garantito così, Alberto. Te lo chiedo perché poi tu sei responsabile editorialmente di quello che va in onda nel caso di Premium Sport, perché è un tema che è stato sollevato da tanti, cioè se la TV della Lega, la regia centralizzata, censura episodi di cronaca, esiste in realtà un diritto di racconto che esula dall'evento sportivo, come viene garantito? Su questo possiamo avere anche delle visioni contrastanti, io e Poppy. Anche se nei grandi eventi internazionali è vero che ci si comporta così, se il tema è il tifoso col fumogeno siamo d'accordo, chi se ne frega, Se invece è l'invasione di campo o un, per me è un fatto di cronaca, quindi va documentato e censurato, questo è il lavoro che dobbiamo fare noi. Ecco, l'oscuramento, e poi il fatto lo sappiamo adesso in un'era, in un'epoca di condivisione, è noto a tutti una frazione di secondo dopo che è successo. Non farlo vedere mi sembra un limite nella cronaca, nel racconto che piace molto al mio caro amico Popi, da quando facevamo le telecronache insieme, sì. Lui era mio regista e mi dava le indicazioni, sì. In cuffia. Ma non dirlo, non raccontarlo, che nessuno sa che cosa ci diciamo noi durante. Ecco, cosa si dice durante la telecronaca? Erano solo cose piacevoli che facevano parte della nostra, sì, precedente vita, Popi. Quindi nel racconto della storia c'è anche il brutto della storia. Anche perché nell'era dei social è impossibile nasconderlo. Esatto, cioè tu non lo, esatto, fai vedere in diretta e 10 secondi dopo... Perché non posso farlo vedere io che sono detentore dei diritti e può farlo vedere uno spettatore allo stadio con lo smartphone. Sì, però nelle partite di cartello ci sono le personalizzate, no? Le camere personalizzate, molto ben pubblicizzate anche dallo speaker. C'è l'integrazione. Quindi l'integrazione, su quello, certo, forse ce la si cava. Cioè. Anzi, con un'enfasi direi addirittura, perché cioè uno può veramente mostrare delle cose che sono uniche. Eh beh, certo. Io voglio spezzare una lancia anche a favore dell'altro aspetto della partita in TV, che è l'audio. Cioè, siamo nell'era delle immagini, l'immagine va bene, vale tutto, ma se c'è una cosa che è coinvolgente della presenza allo stadio è l'esplosione dei tifosi, eccetera. E l'audio viene in realtà molto ben trasferito allo spettatore televisivo, certo non come se fosse allo stadio evidentemente, ma molto soprattutto se ha un impianto surround, va da sé. Questo è, in realtà viene spesso sottovalutato, ma il lavoro che c'è dietro al mixing audio di una partita è tutt'altro che banale. C'è un povero omino che, guardando la palla dove va a finire, l'azione dove si sposta, via via miscela i tanti microfoni, sì, distribuiti sullo stadio. Sì, non che è poi un, fa la stessa un, cosa un, che viene fatta, banale, ho scoperto, insomma, in una regia dove Popi Bonnici o chi si occupa della regia legge la partita, spesso in anticipo, allarga che l'azione va di là, attento che questa è pericolosa, e così via. Mi risponde prima e poi ti saluto Alberto Brandi, ma arriveremo anche noi come in Spagna, come si è tentato di fare, come si fa a legare ad esempio i soldi dati, una parte dei soldi dati alle squadre per i diritti televisivi, all'impegno perché come abbiamo detto prima, ad esempio, concentrino il pubblico in modo che sia visibile alle telecamere. Sì, perché diventerà sempre di più uno spettacolo televisivo e il... Anche un po' virtuale. Sì, sì, anche non virtuale, ma anche vero, no? E lo spettacolo televisivo, già lo sappiamo, quanto pesi nei bilanci delle società di calcio, quanto sia importante la componente televisiva. Noi siamo abituati a misurarci con un prodotto che si chiama Champions League, che ha uno standard qualitativo altissimo, e che è destinato a migliorare anche come format, come abbiamo visto già per il prossimo bando, e la Serie A deve adeguarsi, anche perché c'è un mercato molto importante che è quello orientale, già abbiamo visto quanto la Cina stia entrando nella nostra componente quotidiana, acquisendo delle quote importanti delle società di calcio, come succede qui, come è successo e come succede qui a Milano, e quindi si ampliano gli orizzonti e deve migliorare per forza la qualità. I cinesi, ecco, i cinesi lo vogliono vedere bene, provando a banalizzare il concetto. Sì, i cinesi lo vogliono vedere bene, i cinesi sono più avanti di noi, ne li conosciamo poco, ma sono più avanti di noi. Io ho avuto modo alla fine dell'anno scorso di incontrare Steven Zhang, che è figlio del proprietario dell'Inter, è il suo uomo forte qui a Milano. Loro sono proprietari di una piattaforma che si chiama PPTV in Cina, che ha acquisito i diritti della Premier League pagando quasi 700 milioni di euro, e loro ragionano dal digitale in avanti. Quello che c'è prima del digitale non lo considerano neanche, non esiste, non è di interesse. Non è di interesse. Grazie Alberto. Grazie a voi. Grazie ad Alberto Brandi. Abbiamo meno di un minuto. Popi Bonnici, mi dici in meno di un minuto qual è la regia che ti ricordi di più, calcisticamente parlando? e quella che invece dimenticheresti volentieri. Allora, mettiamola così, cioè, ci troviamo un'altra volta e ti racconterò queste partite più o meno belle. Ma ce n'è qualcuna che... ma non necessariamente perché è andata male, voglio dire. No, non ci penso nemmeno a dirtela. No. È per obbligarti a richiamarmi. Va bene, abbiamo finito. Io ringrazio Poppy Bonnici, Gianfranco Giardina, ringrazio anche Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Alvise Falzone in regia, Gianmarco Ferronato. Torniamo domani che è vigilia di campionato. Ciao.